Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 22 novembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro e Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno tutti i giorni su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, la mia collega di redazione sempre qui con me. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Andiamo subito a bomba ai titoli di oggi. Sapete, la nostra rassegna stampa, come al solito, per 10 minuti con voi. Ma la pena non è vendetta, leggo dal quotidiano Il Riformista a firma di Salvatore Curreri. Stiamo parlando delle due proposte di legge, l'una costituzionale e l'altra ordinaria, presentate dai Fratelli d'Italia per scongiurare, diciamo così, a loro dire, lo smantellamento del carcere ostativo per i boss mafiosi. E questa proposta, a detta del Riformista, dimostra ancora una volta e in modo tristemente inequivocabile quanto ancora sia lunga la strada che separa una certa cultura politica dalla nostra Costituzione sulla pena e sulla sua funzione. Nonostante, Antonella, ci separino quasi 75 anni dall'approvazione della Costituzione e più di 250 dal famoso saggio dell'illuminista Cesare Beccaria dei diritti e delle pene. Difatti, tra le possibili finalità della pena, che sono appunto intimidatoria, afflittiva ed emendativa, i costituenti decisero di privilegiare quest'ultima, quella emendativa, e di qui la nascita dell'articolo 27.3 della Costituzione, che voi che ci ascoltate conoscete alla perfezione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono invece tendere alla rieducazione del condannato. Non è dunque vero che la finalità della pena sono equivalenti, come sostiene Giorgia Meloni, la rappresentante di Fratelli d'Italia, dato che la finalità principale e ineludibile è quella della rieducazione. Caterina, mi sembra alla fine di tornare sempre al punto di partenza. La rieducazione come fine ultimo della pena. Stiamo ancora discutendo di questo e c'è anche scritto in realtà, quindi... È così, è come un ritornello, ritorniamo sempre lì, perché come recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, tra l'altro nel 2018, la rieducazione del condannato è la finalità principale e ineludibile della pena e non può mai essere sacrificata, per così dire, sull'altare di ogni altra pur legittima funzione di pena. Del resto è proprio per smorzare e in fin dei conti contraddire la prevalente finalità rieducativa che Fratelli d'Italia propone di aggiungere al già citato articolo 27.3 della Costituzione questo inciso, ve lo leggo. La legge garantisce che l'esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini. Perché, Meloni lo ha detto, a me che tu hai avuto una buona condotta in carcere o che hai partecipato a programmi di rieducazione, non frega niente se sei stato un mafioso che ha ammazzato. Quindi, una modifica, amici di Eduradio, che finirebbe per sfregiare il volto costituzionale della pena, che deve essere sempre proporzionale anziché eccessiva, individuale anziché fissa e flessibile nel corso dell'esecuzione anziché immodificabile. E tutto ciò nella convinzione che è sottesa sempre alla nostra carta costituzionale e anche sideralmente distante dalle parole della Meloni, che la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, come più volte ha detto anche il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Caterina, il fine pena mai per mafiosi e terroristi contrasta radicalmente con la finalità rieducativa della pena, se ci facciamo un pensiero, no? Non solo, è solo il frutto della banalizzazione a fini propagandistici, in realtà, affermare che a un boss mafioso basta aver tenuto una buona condotta in carcere e partecipato a un programma di rieducazione per essere scarcerato. Sappiamo che non è così. Spetta infatti sempre al giudice di sorveglianza valutare attentamente caso per caso la sua effettiva pericolosità. Valutazione peraltro compiuta alla luce delle relazioni del carcere, nonché dai pareri della Procura Antimafia e dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Del resto anche i numeri lo dimostrano, quanto le maglie sono rimaste strette su questo tema. Anche dopo le sentenze della Corte di Cassazione sono stati infatti solo 8 i permessi accordati agli ergastolani e nessuno tra questi era un 41 bis. Sì, bisogna anche precisare una cosa: consapevoli proprio della delicatezza della materia, la Corte Costituzionale nell'ultima sentenza ha affidato al legislatore il compito, tra l'altro entro il prossimo 22 maggio, di ridefinire la materia, appunto, bilanciando i diritti dell'ergastolano con le esigenze di contrasto al fenomeno mafioso. Esatto, in questa prospettiva le proposte presentate da Fratelli d'Italia e tutte quelle che vogliono reintrodurre il cosiddetto ergastolo ostativo per mafiose terroristi che non collaborano con la giustizia si pongono pervicacemente contro l'articolo 27 della Costituzione sulla finalità rieducativa della pena. Quindi agli alfieri del populismo penale vale la pena sempre ricorda il riformista, che rieducare il condannato non è solo un obbligo morale e un vincolo costituzionale, ma costituisce il miglior investimento economico per assicurare la sicurezza sociale nel paese. Andiamo alla musica perché non c'è più tempo. Questa settimana siamo sempre con Bruce Springsteen, il re del rock, e la canzone che vi faccio ascoltare adesso è Born to Run, nato per correre, una canzone sulle future generazioni. E ci rivediamo tra poco. Eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro e Duradio e TV. Antonella, c'è un termine che vorrei affrontare con te, che conosco anche io per la prima volta, che è chemsex. Raccontaci cosa sia. Prima di tutto, come puoi immaginare, è una parola composta, così linguisticamente parlando, sono due parole inglesi che si sono unite. Ma perché parliamo di chemsex? Perché la cronaca degli ultimi mesi ci ha fatto conoscere questo nuovo termine, cioè il sesso sotto effetto di sostanze psicoattive. Grazie ad alcuni utilizzatori famosi legati al mondo dello spettacolo e della politica, dei quali ovviamente non facciamo nome. E sebbene ci sembri un fenomeno nuovo, in realtà non lo è per niente. E il vecchio sex and drugs and rock and roll che si usava negli anni 70 sembra quasi sbiadire dietro le nuove droghe che hanno conquistato il palcoscenico e hanno reso il sesso per alcuni indissolubilmente legato alle sostanze. Caspita, Antonella, spiega meglio tutta questa faccenda. Allora, guarda, ho intervistato il dottor Gilberto Gerra, che è internista endocrinologo specializzato in farmacologia e tossicologia, che ci ha raccontato che l'utilizzo di sostanze psicoattive per scopi non medici, tipo appunto morfina, cocaina, atropina, mescalina, inalanti, alcol, eccetera, si è spesso intrecciato con la sfera della sessualità in modi diversi, dipendenti un po' dai contesti sociali e dai costumi culturali, ovviamente. Infatti le sostanze psicoattive sono state usate già nel passato per rispondere a delle aspettative inerenti alla sessualità, dall'induzione di uno stato di disinibizione con riduzione del controllo degli impulsi all'incremento delle performance, dal nutrimento di un immaginario fantastico con stati di derealizzazione e deresponsabilizzazione all'inconsapevolezza rispetto alle possibili conseguenze problematiche, e questo è il vero punto. E questi che hai citato sono gli effetti attesi. Quali sono i rischi? Guarda, c'è un grande paradosso dietro all'uso di queste sostanze, perché gli effetti collaterali problematici comprendono un'azione inibitoria sull'asse ormonale che controlla le gonadi, con conseguente riduzione appunto della produzione di estrogeni e testosterone, che di fatto sono gli ormoni della sessualità, e un aumento della prolattina, capace poi tra l'altro di indurre irregolarità al ciclo mestruale nelle donne e impotenza negli uomini, e poi anche disinteresse verso il sesso. Oltre a queste conseguenze ci sono anche quelle psicologiche, infatti di frequente ritroviamo irritabilità, paranoia, ostilità soprattutto orientata verso il partner. Se dovessimo pensare all'ultimo decennio in particolare, come è cambiato l'uso delle sostanze? Allora Caterina, negli ultimi decenni, in continuità un po' con quello che abbiamo detto, ci sono sempre nuove modalità e anche nuove sostanze in realtà. Il mercato delle sostanze psicoattive, per esempio, offre un ventaglio di scelte conformi un po' alle attitudini, alle necessità dei consumatori. Per esempio si può chiedere alle sostanze di migliorare la propria socievolezza, facilitando le relazioni interpersonali, e queste sono le sostanze entactogene. Si può aumentare l'energia e ridurre lo stato di affaticamento durante i parti, che non finiscono mai, sai, quei parti che durano notti, giorni, con sostanze energizzanti. Si può cercare nelle sostanze una riduzione della consapevolezza propria e dei propri possibili partner, a sostegno di una forma di sessualità predatoria e in qualche caso violenta, e annullamento di fatto dello stato di coscienza. Abbiamo tanti esempi appunto della famosa droga dello stupro, tra l'altro. Considerati gli effetti farmacologici di queste nuove droghe, sono stati riscontrati una maggiore frequenza rispetto appunto alla popolazione generale di quadri clinici caratterizzati da ansia, agitazione e anche depressione, e non sono infrequenti condizioni somatiche quali disturbi cardiovascolari, ipertensione, trombosi, aumento del rischio di incorrere in infezioni anche legate appunto a trasmissione sessuale, proprio perché perdendo l'inibizione e si hanno rapporti non protetti fondamentalmente. La situazione che descrivi è molto pericolosa, e ti chiedo quali sono allo stato attuale le sostanze più diffuse. Allora, appartengono alla categoria delle metanfetamine, sono sostanze stimolanti con una componente tra l'altro allucinogena, capaci di indurre condizioni di dipendenza e molto forte. Il soggetto polarizza la sua esistenza solo sul binomio sesso-sostanza, con gravi alterazioni metaboliche e del bilancio elettrolitico. Questo ce lo spiega il dottor Gerra, di cui vi ho citato prima il nome. E tra le sostanze anfetaminiche primeggia il mefedrone, che si tratta di un derivato naturale di una pianta presente in Nord Africa, Cata edulis si chiama, che viene trattata chimicamente per ottenere il metilcatinone, che è una nuova sostanza psicoattiva semisintetica. E tra le sostanze in questo ambito in grado di compromettere lo stato di coscienza, pregiudicando poi le difese personali e anche il libero arbitrio, si annovera quella che è appunto definita la famosa droga dello stupro, GHB, che è il gamma idrossibutirrico, e che è un farmaco che simula gli effetti di un tranquillante naturale presente già nel sistema nervoso centrale, il GABA. Ed è proprio un'eccessiva stimolazione dei recettori del GABA da parte del GHB che può giungere appunto, che può determinare il coma, addirittura la morte. Tale sostanza ha anche le proprietà mediche, come tutte le sostanze di cui di solito si parlano, e infatti è un farmaco per curare l'alcolismo, quando usato ovviamente sotto stretta supervisione medica. E continuiamo a rimanere sul sesso, e ci ricordiamo di una famosa canzone di Tom Jones che è appunto Sex Bomb. Ascoltiamolo insieme. Struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up a score. Yeah. You can turn me upside down and inside. Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui insieme ad Alice Listuzzi, coordinatrice del progetto Territori per il Reinserimento. Insieme a lei andremo ad affrontare esattamente in cosa consiste questo progetto e a chi è destinato. Nelle prossime due pillole analizzeremo tutti questi discorsi insieme a lei. Buona pillola! Ciao Alice, allora, prima di parlare del progetto Territori per il Reinserimento, ci puoi spiegare in cosa consiste l'esecuzione penale esterna? Che cosa significa esattamente? Allora, una volta che viene appurato dagli organi competenti che una persona abbia effettivamente commesso un reato, la persona ha il diritto di poter chiedere di eseguire la propria pena, di scontare la propria pena in maniera esterna al carcere. E a volte viene concesso ed avviene appunto quella che viene definita l'esecuzione di pena alternativa. E in altri casi invece questa richiesta non viene soddisfatta e quindi la persona dovrà scontare la propria pena nella casa circondariale, quindi in carcere. Allora Alice, parlaci del progetto Territori per il Reinserimento del Consorzio Arcolaio adesso. In cosa consiste e quali sono le persone beneficiarie a cui è destinato? Allora, intanto le persone beneficiarie sono persone che stanno scontando una pena alternativa al carcere oppure persone che sono in carcere, quindi sono internate e che possono avere diritto a scontare la pena al di fuori della casa circondariale. E sono persone adulte, ma sono anche giovani adulti, quindi persone che dai 18 ai 25 anni e anche adulti con figli minori. Il progetto Territori si pone l'obiettivo di lavorare con le persone sul loro reinserimento nella comunità attraverso appunto l'attivazione di risorse e di prestazioni che possono aiutare, diciamo, ad aumentare il loro livello di benessere e anche proprio il loro reinserimento nel tessuto della comunità. E per fare un esempio, si può attivare un percorso di sostegno educativo che può orientare la persona sul territorio, ad esempio nel caso avesse bisogno di un sostegno legale, ci si può interfacciare con associazioni presenti sul territorio che operano in tale ambito e agganciare la persona. Oppure la persona la si può aiutare in maniera concreta, ad esempio attraverso l'erogazione di contributo che può andare a coprire la caparra della casa in affitto o che possa riuscire a pagare le spese dell'università. Insomma, ha tutta una serie di appunto di prestazioni e di azioni che si possono mettere in campo per aiutare le persone nel loro ritorno in società. E adesso ci troviamo brevemente per un piccolo intermezzo musicale. Torniamo presto. نظراتك حمقوني، لمساتك سحروني، خدوا قلبي وعيوني. شوفة فيك تشفيني، كلمة منك تحييني، من عالمك تديني. أشنو درتي ليا؟ عشقك أثر فيا. أشنو درتي ليا؟ عشقك أثر فيا. أنت الحب عندوش طعم زيانه تيك تاك رابا بام بام القلب كطرب رابا بام بام لاف مي لاف مي لاف مي بيبي الحب والعشق صايبي شمعنا اللوف اللوف اللوف ونضل نقول مريم بوبا اكرمتني بالحضوريه قصرت قلبي ضروريه E dopo un breve stacco musicale, eccoci di nuovo insieme ad Alice Listuzzi per la pillola odierna. Ciao Alice, allora in questo contesto quindi del progetto per il territorio di reinserimento, qual è l'impegno degli operatori del Consorzio Arcolaio? L'impegno è quello di riuscire a creare delle relazioni significative con le persone e di promuovere una serie di azioni che possano migliorare il loro livello di benessere e che possano anche implementare il loro grado di autonomia e poi altro tema molto importante è quello di promuovere il reinserimento della persona all'interno della comunità e perché no anche di coinvolgere la persona in un ruolo di cittadinanza attiva. Quali bisogni va a coprire il progetto Territori per il reinserimento per coloro che si trovano all'interno dell'esecuzione penale alternativa? Allora, c'è una prima fase di rilevazione del bisogno che viene effettuata dagli assistenti sociali di presa in carico delle persone. Successivamente viene portata all'equipe esecuzione penale, che è appunto un luogo dove ci si incontra tutti i membri di questa equipe per discutere i casi. Una volta approvato il tipo di proposta che viene fatto dall'assistente sociale preso in carico, gli operatori del progetto conoscono a tutti gli effetti la persona. E là ci sarà un momento di incontro tra operatori del progetto, beneficiari e l'assistente sociale del caso, in cui si concorderà un progetto, quindi si concorderanno gli obiettivi, si concorderanno i tempi e le risorse attivabili. Di conseguenza c'è un primo step di rilevazione del bisogno, che è solo diciamo di una persona, che è l'assistente sociale, e poi un successivo, un secondo momento in cui appunto ci sarà un lavoro più organico, dove si deciderà insieme che percorso fare, soprattutto tenendo in considerazione le volontà, i bisogni e i desideri dei beneficiari. Ok. E dimmi Alice, che rapporto si crea invece tra gli operatori del progetto e le persone segnalate in carico al progetto stesso? L'idea è quella che gli operatori possano diventare un punto di riferimento per i beneficiari, e lo possono diventare anche in vario modo rispetto ai bisogni che porta la persona. Mi immagino ad esempio, come è anche successo, magari dare un aiuto nel fare una ricerca della casa, dare un aiuto nel mettere ordine nelle proprie pratiche burocratiche, o un monitoraggio anche semplicemente su come sta una persona, anche per avere un punto di riferimento da contattare al bisogno. Altro punto molto importante è anche quello che l'operatore del progetto diventa anche il promotore dell'integrazione della persona nella comunità, quindi diventa anche colui che promuove l'aggancio con realtà presenti sul territorio, e che promuove anche la spinta che può avere il beneficiario stesso nel partecipare, nell'essere partecipe in ciò che succede nella società. E anche per oggi è tutto, ci vediamo lunedì prossimo insieme ad Alice Listuzzi per affrontare nuovamente il discorso sui progetto territori per il reinserimento. Buona giornata! Rieccoci, bentornati per i saluti di fine puntata. Vi ricordo le nostre rubriche Oggi parliamo di, dove continueremo con il documentario a cura di Paola Leotti, Sogni dietro le sbarre, e a seguire la seconda puntata del documentario Libero della comunità La Collina di Cagliari, a cura della nostra tirocinante Diana Bota. Vi salutiamo, vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com, e come al solito da me, Antonella ed Enea Flacco, un carissimo saluto e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.